cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, e con due ori vi diamo ancora un buongiorno, perché ci colleghiamo dall'altra parte dell'oceano dove è notte e sta seguendo per noi queste magnifiche Olimpiadi il nostro Dario Ricci. Buongiorno, buonanotte Dario, a secondo dei continenti. Sì, io prendo volentieri il buonanotte e vi do il buongiorno, visto che sono 5 ore indietro. Ma insomma, è un piacere prendere questo primissimo caffè della notte con voi. Sei appena rientrato perché è stata una serata, anzi una giornata particolarmente proficua per l'Italia, un oro nel judo e un oro nel fioretto. Ve l'aspettavate voi cronisti sportivi? Beh, quella di ieri, oggi, diciamo così, tra i due continenti è stata davvero una giornata eccezionale per l'Italia, tant'è che sono rientrato da pochi minuti dalla festa che c'è stata proprio nella splendida location di Casa Italia, perché sono stati 2 ori, il 200° della nostra storia olimpica, conquistato dal Basile nel judo, poi il 201° che è arrivato a distanza proprio di pochi minuti e anche di pochi metri, perché le due arene sono vicinissime nel Parco Olimpico qui di Rio de Janeiro, con Garozzo nel fioretto individuale, e poi sì, è vero, 2 ori, ma anche 2 argenti, Elisabetta, perché quello di Cagnotte Dall'Apè nei tuffi sincro dai 3 metri e poi quello della Giuffrida sempre nel judo, oltre al bronzo di Elisa Longo Borghini nel ciclismo. Quindi davvero neanche il più ottimista fra di noi avrebbe potuto immaginare questo risultato, che avrebbe potuto essere anche più significativo, considerando che Jessica Rossi, che nel tiro a volo era tra le grandi favorite perché difendeva il titolo di Londra del 2012, è arrivata sesta, e le ragazze dell'arco donne, della squadra dell'arco femminile, sono arrivate quarte, quindi veramente a un soffio dal podio. Hanno sfiorato il podio. Senti, Tania e Francesca hanno detto addio alla maledizione Cagnotte Dall'Apè. Ecco, è sembrato un po' che anche la maledizione si fosse sciolta, perché il presidente del Consiglio è anche partito da Rio. I nostri politici non portano mai bene, no? Ti ricordi anche nel finale di campionato del mondo, quando arrivava il Premier, era sempre un brutto presagio. È così un po'. Ma diciamo che quella di Cagnotte Dall'Apè era tutt'altra maledizione, perché a Londra il podio era sfumato per pochissimi centesimi di punto, anche nella gara individuale, quindi soprattutto per la Cagnotto questa mancanza di una medaglia olimpica in un palmarès altrimenti ricchissimo stava veramente diventando una maledizione. Per quanto riguarda il discorso dei politici, beh sì, pure qui c'è stata la battuta, no? Cioè, appena partito Renzi, dopo una domenica tutto sommato non felicissima, anche se poi erano arrivate 2 medaglie, un argento e un bronzo, è arrivato un bottino sicuramente più cospicuo. Vabbè. Diciamo che i politici, quando mettono il naso nello sport, rischiano sempre. L'episodio a cui alludevi te era, credo sia quello di Mario Monti, che notoriamente disinteressata alle vicende calcistiche, tant'è che aveva bocciato la candidatura olimpica di Roma già per il 2020, ebbe la malaugurata idea di avvicinarsi al calcio solo in occasione della finale di Euro 2012 fra Italia e Spagna a Kiev. Ebbene, col Premier in tribuna ne beccammo 4 e lasciammo il titolo agli spagnoli. Quindi insomma, il politico rischia sempre, perché in quel caso deve fidarsi un po', deve delegare un po' le sue fortune allo sportivo, che ci mette del suo, ma non sempre ce la fa. O forse c'è anche un po' più di nervosismo, perché magari c'è il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica lì. Senti Dario, a proposito di Rio, ci sono state molte polemiche su delle strutture fatiscenti, sugli alloggi per gli atleti non finiti. Ora che tu sei lì, che cosa hai trovato? Ma diciamo che questa è sicuramente un'Olimpiade più spartana rispetto alle altre due estive a cui ho assistito, che sono state quelle di Pechino e di Londra, per motivi diversi ma molto ben organizzate. Qui lo spirito sudamericano si mescola anche ai problemi di bilancio che hanno attanagliato l'organizzazione nella seconda fase di realizzazione delle infrastrutture olimpiche, e poi ai problemi endemici del Brasile. Detto questo, tutto funziona in modo a volte anche miracoloso, in modo più semplice, ma c'è tutto e quindi sai, molti problemi poi nel momento in cui cominciano le gare. L'evento sportivo ha il sopravvento e devo dire che poi, per esempio, l'afflusso ai siti olimpici è costante, ci sono file lunghissime di spettatori, quindi c'è questo interesse, chiaramente che cambia da sport a sport, per esempio le partite di pallavolo del Brasile, siamo a scrivere che femminile sono evento nazionale. E quindi tutto esaurito al Maracanazinho, altri sport al tutto esaurito non arrivano. Però direi che tutto sommato questa Olimpiade sta abbastanza in piedi, ecco, considerando anche la specificità di Rio, che è una città anche dalla topografia molto particolare. Quindi secondo te, come cronista poi sportivo di Radio 24, si potrebbero fare le Olimpiadi a Roma? Perché ci sono molte polemiche. Ah, io penso di sì, anzi io sono un forte sostenitore di questa ipotesi perché non vedo perché non possiamo fare le Olimpiadi bene, non vedo perché non possiamo farle senza corruzione, non vedo perché non possiamo farle con le infrastrutture giuste e soprattutto visto che il CIO sotto la presidenza di Thomas Bach, che proprio oggi sarà ospite di Casa Italia, ha varato un'agenda che ridimensiona e ottimizza le risorse del Movimento Olimpico, ma anche le richieste del Movimento Olimpico alle città che vanno ad ospitare i giochi. Io sinceramente non mi piace questa ondata di disfattismo e non capisco perché non si possano mettere insieme, aggiustare le strade, tenere pulita una città e fare un'Olimpiade. Mi sembrano cose conseguenziali, non contrapposte, ma magari sbaglio, Beh, ma le strutture a Roma, cioè c'è lo stadio olimpico e va bene, no? E poi le altre gare dove si potrebbero fare, secondo te? Beh, Elisabetta, c'è un piano che è già stato organizzato, insomma, Quindi. l'Olimpico è solo una piccola parte, abbiamo il Foro Italico, il villaggio olimpico da posizionare in base alle indicazioni del CIO, insomma. Buona parte degli impianti possono essere ottimizzati, ristrutturati e proprio questa nuova agenda del CIO anzi favorisce questa ipotesi rispetto alla costruzione ex novo di impianti che poi diventano cattedrali nel deserto. Detto questo, come ben sappiamo, anche le infrastrutture sportive della capitale avrebbero bisogno di un ammodernamento che male non farebbe. Insomma, se una volta ogni 60 anni rifacciamo uno stadio e ne facciamo uno ex novo, gli altri all'estero ci mettono un po' di meno, e non lo fanno con queste polemiche, Insomma, semplicemente lo fanno bene, per si può te fare. sia alle Olimpiadi, ecco, il nostro cronista sportivo ci dice sia alle Olimpiadi a Roma. Senti Dario, oggi in agenda c'è un evento abbastanza importante per la nostra squadra. Qualcuno si tuffa in acqua? Direi di sì, si tuffa la divina Federica Pellegrini che comincia la sua rincorsa al podio dei 200 stile libero col primo turno di qualificazione. Direi che è un'impresa ardua perché comunque le rivali ce lo stanno facendo vedere in queste ore, l'incredibile americana Ledecky, fresca di oro con il record del mondo. La Sjöström, la svedese, insomma, non mancano, però Super Fede è Super Fede. Innanzitutto è un atleta che deve potersi tuffare in acqua libera di ogni pensiero perché ha riscritto la storia del nuoto mondiale e quindi anche italiano. E poi ha dimostrato più volte di poter sempre piazzare la zampata vincente. Io vedendola in questi giorni, vedendola anche l'altra sera dopo la staffetta, lo sguardo, la postura, l'attitudine, insomma il body language, quello che un po' gli esperti chiamano il body language, non voglio dire niente, però seguiamola con affetto perché è una grande campionessa, ci ha dato tante emozioni e credo che ce ne regalerà ancora nelle prossime ore. Un'ultima questione è quella lì del doping, no? C'è stato Schwarzer che è venuto a Ria, ha protestato perché secondo lui non era dopato, c'erano stati degli esami falsi e c'è stata poi l'esclusione di quasi la totalità della squadra russa. Insomma, queste Olimpiadi sembrano un po' azzoppate senza i russi, o no? Allora, diciamo che il caso Schwarzer avrà oggi alle 10.30 locali, quando saranno le 15.30 in Italia, sentenza definitiva dal Tribunale Arbitrale dello Sport che sta lavorando intensamente qui a Rio e quindi ci sarà una parola definitiva almeno sulla partecipazione o meno dell'altoatesino a queste Olimpiadi, perché questa ipotesi, per quanto remota, è ancora ben presente sulla carta. Per quanto riguarda la spedizione russa, sì, è stata azzoppata chiaramente dall'inchiesta sul doping di Stato promossa dall'Agenzia Mondiale Antidoping, ma al tempo stesso la commissione poi varata dal CIO ha reintegrato buona parte degli atleti inizialmente esclusi dalle federazioni internazionali, soprattutto perché evidentemente erano dei casi che dal punto di vista legale avrebbero potuto creare non pochi problemi. Detto questo, è chiaro che la Russia è una delle grandi potenze, non solo a livello politico, ma anche dello sport mondiale, e questa sua partecipazione, quantomeno a macchia di leopardo e sotto questa nebbia profondissima che è rappresentata da questi casi di doping di Stato, getta una luce opaca su tutta questa edizione dei giochi. Le Olimpiadi sono anche fratellanza. Ho saputo che c'è la squadra dei rifugiati politici, è così? Sì, assolutamente. Credo che sia uno dei motivi che danno forza e vigore ai cinque cerchi olimpici tanto bistrattati. Sotto l'egida del CIO questa squadra si è potuta costituire, si è potuta allenare e questi atleti possono partecipare a queste competizioni. Atleti costretti molto spesso ad abbandonare la propria patria d'origine perché perseguitati politici o costretti da fame, carestie e altre sciagure di questo genere. Il fatto che partecipino alle Olimpiadi, prendano parte alle loro gare è veramente un segno straordinario che tra l'altro è stato ben evidenziato proprio nella cerimonia d'apertura con un momento ad hoc dedicato proprio a tutto il lavoro fatto da questa squadra per poter essere in campo qui a Rio de Janeiro. Insomma, Dario, ti lasciamo andare a dormire, ti auguriamo la buonanotte, invece noi diamo la linea alla regia e ci sentiamo subito dopo la pausa. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? Degli antichi greci è quel paradosso del veloce Achille e della tartaruga. Il guerriero corre a più non posso, mentre la bestia insegue alla lattuga. Pur anco Roma è lenta e sovra l'osso se porta dietro qualche vecchia ruga. C'ha il bilancio perennemente in rosso e la politica si è data ormai alla fuga. Tuttavia voleva ospitare l'Olimpiade che sarà tragica come nell'Iliade. La città che fu messa a ferro e fuoco e non c'era ancora la mafia in loco. C'è entrata dopo col cavallo, certo era di legno e si chiamava Troia. La porta per sbaglio gli hanno aperto e si sono ritrovati in casa Erboia. Romani, non famo lo stesso errore. Poi ci resta da smaltire strutture fatiscenti mentre il costruttore giurerà che sono utili ste brutture. E abbiamo sentito la pasquinata di Enrico Bernard, autore teatrale che si presta a questi scherzi radiofonici qui su Radio 24, che ci introduce al tema di questo approfondimento, le Olimpiadi a Roma. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Abbiamo sentito Dario Ricci, il nostro corrispondente, il nostro inviato a Rio, che è favorevole, e Enrico Bernard invece, attraverso questa versione popolare pasquinata, ci dice assolutamente il contrario. Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle, attualmente capogruppo alla Camera, è forse sul fronte del no alle Olimpiadi a Roma. Buongiorno onorevole Castelli, perché il Movimento dice di no? Buongiorno a voi, portavoce. Buongiorno, allora io vengo da Torino, vengo da una città che le Olimpiadi le ha vissute nel 2006 e che ne sta vivendo tutt'oggi gli effetti. Certo, uno potrebbe dire che a livello locale gli effetti si vedono ancora, e quale città non vedrebbe un effetto positivo dopo un'iniezione di denaro talmente grande come non aveva mai visto. Peccato che, a prescindere da come vengano organizzate queste risorse, le Olimpiadi è ormai noto che non sono mai il modo migliore per spendere il denaro pubblico, e che oggi sono diventate propriamente buchi di bilancio, tagli dei servizi come tagli alle scuole, all'assistenza sanitaria e alle politiche abitative. Io devo dire che, vivendo Torino e vivendo quello che sono stati anche gli ultimi 9 mesi di campagna elettorale per cercare di ridare Torino ai torinesi con il Movimento 5 Stelle, quello che abbiamo visto è l'effetto, ciò che è rimasto, per non parlare di non solo i costi che sono chiaramente lievitati e che lievitano, c'è una cognizione storica di quello che sono i costi che lievitano. Addirittura Torino, poi, attraverso le fondazioni che hanno gestito il posto olimpico, ha fatto quello che si chiama lo spezzatino immobiliare, la cartolarizzazione degli immobili, li ha lasciati abbandonati. Potrei elencarle uno dopo l'altro le strutture che oggi non solo sono fatiscenti ma sono del tutto abbandonate. E per finire, la Guardia di Finanza svolse anche importanti indagini sulla dubbia gestione della liquidazione. Poi a un certo punto nel 2016 ci trovammo in legge di stabilità alla Camera un emendamento che metteva 10 anni dopo il commissario liquidatore per le Olimpiadi di Torino. Sono moltissimi i casi in cui città del mondo hanno fatto Olimpiadi spendendo molti miliardi. Nel caso di Roma ci sono già delle baruffe sui conti, si parla di uno sforamento di oltre 35% rispetto a quello che è previsto, si parla di 13 miliardi che non vanno tutti a sostegno del turismo ma che servono a fare anche altre opere. Ora, quello che il Movimento 5 Stelle dice e sostiene è semplicemente questo: riconoscere che in questo momento la priorità del paese non può essere questo genere di investimento pubblico. Questo paese ha bisogno di altro, ha bisogno di investire in infrastrutture come il trasporto pubblico locale, che non è per niente banale quando lei pensa che Matera, città della cultura, oggi non ha un treno per permettere agli italiani di raggiungere la città della cultura. E quindi si possono dire moltissime cose. Io ho sentito prima, dicevate perché no, perché la corruzione dovrebbe non permettere una cosa come questa, e il problema è proprio questo, non è una barzelletta, e ormai gli italiani l'hanno capito anche grazie alle grandissime inchieste che sono state fatte in questi anni. La corruzione in Italia non permette di fare cose di questo tipo, grandi opere sì, non le permette, soprattutto quando le bozze dei programmi come quello che riguarda le Olimpiadi, peraltro molto poco differente rispetto al piano 2020 che venne già bocciato dall'allora governo, prevede tutto l'investimento su infrastrutture come metropolitana C, che oggi leggiamo nelle carte della procura, aeroporti. Io potrei citarle moltissimi aeroporti che tutti gli anni chiedono al governo dei soldi per migliorare il proprio turismo. Ora si tratta di capire dove esattamente un governo vuole mettere le mani, certo, perché questi soldi si possono investire in cose che hanno un impatto sociale certamente superiore a quello che viene atteso dal posto olimpico, e che la storia ci dice con i numeri che è pari a zero, perché davvero, se si guarda Torino e che cosa è rimasto del posto olimpico, dove oltretutto io le dico non c'è stata un'amministrazione drammatica a Torino, tant'è che nessuno si non ci sono state indagini della magistratura, dice ci lei. Ci sono state. Io parlo dal punto di vista politico, no? Tutti dicevano ma figuriamoci, il Movimento 5 Stelle a Torino non vincerà mai perché il Partito Democratico ha governato bene, perché la sensazione era quella. In realtà dietro le carte, dietro i numeri, ciò che si vede è che è davanti agli occhi di tutti che le Olimpiadi sono state un grandissimo fallimento. E io a pensare che oggi non posso dare una casa, quindi non posso dare due soldi in più per le politiche abitative perché ho dei buchi di bilancio creati dalle Olimpiadi, mi dispiace, ma non solo mi piange il cuore, ma mi innervosisce, ecco, perché non è ammissibile la gestione di un evento grande così, che per carità, cioè anch'io le guardo le Olimpiadi e mi fa piacere vedere lo sport, io però oggi faccio i conti con un assessore del Movimento 5 Stelle nel Comune di Torino che mi dice ma tu ti rendi conto che le piscine stanno aperte solo dalle 10 alle 5 del pomeriggio perché non ci sono soldi per sostenere lo sport? Ora preferisco che sostenere a Roma lo sport, non si facciano le Olimpiadi ma che si guardino in televisione, ma che un ragazzo di 20 anni possa andare in piscina e magari diventare una nuova una ragazza, magari diventare una nuova Federica, ecco. Pellegrini, il nostro numero SMS 349-238-6666, 800-24-0024 per invece i vostri interventi telefonici. E abbiamo sentito Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Alcuni radioascoltatori ci scrivono: a Londra ho visto impianti bellissimi e sempre pieni, con avvenimenti seguiti con una passione in una super, con una passione super in una città suggestiva. E mentre un altro radioascoltatore dice in effetti quasi tutte le Olimpiadi sono state un bagno di sangue dal punto di vista finanziario. Marco Del Corona, giornalista del Corriere della Sera, inviato all'epoca alle Olimpiadi in Cina nel 2008, che cosa accadde allora e che cosa è successo poi di questi mega impianti delle Olimpiadi di Pechino che si sta ricandidando la nuova Olimpiadi? Marco. Allora, le Olimpiadi di Pechino del 2008 sono state il culmine di una stagione gloriosa per la Cina. La Cina nel 2001 era entrata nella WTO, aveva avuto l'assegnazione dei giochi, quindi la preparazione delle Olimpiadi del 2008 è stata vissuta come una grande epopea nazionale. Sono stati spesi 40 miliardi di dollari per costruire a Pechino, mi pare, 37 impianti ed è stato vissuta la preparazione delle Olimpiadi come l'ingresso della Cina sul palcoscenico mondiale, come la glorificazione di una leadership che era a metà del suo mandato nel momento delle Olimpiadi. Quindi, parlando della Cina, è difficile separare l'aspetto puramente economico, appunto, con queste spese, con questa trasformazione della città di Pechino, dall'investimento politico ed immagine che il regime ha compiuto in quell'occasione. La città di Pechino ne è uscita trasformata perché sono state aperte nuove linee della metropolitana, sono state spostate le fabbriche nelle zone più periferiche, è stato dato un impulso straordinario alle infrastrutture, non solo a Pechino ma anche in altre città, perché alcune gare non si svolgevano a Pechino, addirittura l'equitazione era a Hong Kong, ecco. Però per Pechino è stato un cambiamento epocale. Poi di quello che è stato costruito è effettivamente rimasto in gran parte inutilizzato, cattedrali nel deserto, perché il caso più emblematico è lo stadio, il Nido d'Uccello, che è un'opera meravigliosa da un punto di vista architettonico. C'era un disegno di Ai Weiwei, il noto artista, poi caduto in disgrazia agli occhi del regime, e dagli architetti europei Herzog e de Meuron. Ma questo meraviglioso impianto ha ospitato le gare e poi dopo si è trovato troppo oneroso per il mantenimento. Si parlava di trasformare in un centro commerciale. Ha ospitato tre supercoppe italiane di calcio a partire dal 2009 con Inter Milan, poi c'è stato Inter Lazio, poi un Inter Milan, poi Juventus Napoli. Però a parte qualche partita, qualche spettacolo come una Turandot e poche altre cose è rimasto così. Il Water Cube, che era l'impianto meraviglioso da fuori del nuoto, è diventato un parco di divertimenti per acquatici, e l'intera zona del parco olimpico è diventata una zona dove i cinesi vanno a passeggiare, ma gli impianti minori, quelli degli sport minori, sono rimasti ovviamente isolati dal tessuto così della condivisione della città. Va detto anche che Pechino aveva un suo stadio per il calcio, che è sostanzialmente nel cuore della città, che è quello dove continua a giocare la squadra di calcio di Pechino, mentre lo stadio Nido d'Uccello appunto è rimasto una sorta di monumento. È rimasto vuoto. Ecco Marco, poi c'erano anche delle polemiche all'epoca, perché si sperava che attraverso questi giochi i diritti umani potessero poi essere più garantiti in Cina, no? C'era questa speranza del mondo occidentale che le Olimpiadi potessero portare questa ventata di novità anche riguardo ai diritti civili, e così non è stato, perché come hai detto tu, colui che ha costruito uno degli impianti poi è caduto in disgrazia ed è stato incarcerato. Infatti questo è l'altro aspetto a cui accennavo, cioè in Cina il denaro e la politica vanno in parallelo, quindi sulla politica la Cina si è resa conto che quello era il momento in cui doveva mostrarsi presentabile agli occhi dell'Occidente, non perché per la leadership e per buona parte dell'opinione pubblica cinese quei valori che noi riteniamo fondamentali siano necessari, ma perché era necessario mostrarsi aperti, per cui furono riformulate le leggi sulla stampa, i giornalisti internazionali potevano viaggiare in tutta la Cina senza particolari restrizioni, sembrava che ci fossero delle aperture, ma subito dopo tutto si è richiuso ed è cominciato un progressivo scivolamento verso l'attuale normalità, che è di fortissime restrizioni e un peggioramento dei diritti umani piuttosto consistente, con difficoltà per gli avvocati, con una serie di misure che sono giudicate repressive secondo gli standard internazionali da molti osservatori indipendenti. Va detto che il pensiero comune in Cina e soprattutto da parte della leadership è che la Cina abbia bisogno di un sistema di valori che non è quello delle democrazie liberali occidentali, che quindi è assolutamente ragionevole difendere la censura, difendere il primato del Partito Comunista e quindi della politica sull'indipendenza degli organi di giustizia e così via. Quindi quello che per noi è oltraggioso, per la Cina è una normalità che ha avuto nelle Olimpiadi una sorta di tregua, se vogliamo, però da lì in poi tutto si è normalizzato molto rapidamente. Dunque intanto c'è Rio 2016, poi oggettivamente l'Italia è in campo, la candidatura di Roma è insieme a quella di Parigi, di Los Angeles e di Budapest allo spazio finale, al scatto finale, al rush finale, da quello che vediamo qui Roma è sicuramente, sinceramente in pole position, quindi discuteremo, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ora c'è la tregua olimpica anche su questo, quindi evitiamo le solite polemiche, anche chi vede non di buon occhio le Olimpiadi sicuramente farà un grande tifo per gli atleti azzurri, per cui per 15 giorni parliamo soltanto di sport, parliamo delle Olimpiadi e vediamo se poi portiamo a casa qualche medaglia. C'è un momento nel quale le polemiche si possono interrompere e fermare, e questo momento credo che siano le Olimpiadi. Onorevole Castelli, abbiamo sentito il Premier, ovviamente lui è a favore delle Olimpiadi, mentre il Movimento 5 Stelle vorrebbe delle spese per le strutture come strade, trasporti. Torino, villaggio olimpico in mano agli immigrati, via gli italiani, qui comandiamo noi. E questo sta accadendo anche all'Expo a Milano, dove sul decumano hanno poi preso piede alcuni migranti che non sanno dove andare, anche in questo caso non ci sono strutture e i migranti per dormire, per poter vivere, vanno dove possono. È così? È quello che sta succedendo a Torino? Guardi, che il Presidente del Consiglio la ritenga insomma un modo poco serio di parlare di Olimpiadi, quello che stiamo facendo in questo momento, mi offende. La responsabilità di chi governa questo paese dovrebbe essere quello di sapere perfettamente ciò che serve e ciò che si deve fare nella maniera più trasparente e corretta possibile. Io quello che dico è che se pensiamo a Expo, che doveva essere un centro attrattivo internazionale, un'esperienza grandissima per quel che riguardava l'Italia, si è tramutata invece in una drammatica tangentopoli, tant'è che gli strascichi giudiziari insomma parlano da soli. Io non vorrei legare le Olimpiadi a discorsi che riguardano l'immigrazione. Oggi, quando in una città si fa una grande opera inutile, quello che succede è che quando viene lasciata alla cittadinanza, i cittadini e chi vive una città la usa nella maniera più opportuna. A Torino sì, è successo questo, il villaggio olimpico universitario prima non è stato terminato, gli universitari l'hanno utilizzata praticamente niente, poi è stata oggetto di ruberie, c'era gente che andava a rubare le finestre, i vetri per rivenderli, il rame, i tubi, qualunque cosa. Città come Torino oggi vivono un livello di povertà altissimo e quello che succede è chiaramente questo. Poi c'è il problema, come dicevo prima, dell'emergenza abitativa, che ripeto non è da sottovalutare, anche Roma ha dei grandissimi problemi di emergenza abitativa. Io credo che la responsabilità di un governo in questo momento sia quella di fare una perfetta fotografia di quello che è oggi l'Italia e mettere le mani laddove serve. Io, guardi, ci tengo moltissimo, lei lo sa, io sto in commissione bilancio, per me c'è un criterio fondamentale quando si decide dove mettere un solo euro nel bilancio pubblico che arriva dalle tasse dei cittadini, che danno una fiducia limitata a un governo, cioè quanto ritorna dell'investimento fatto. Noi siamo in un'epoca storica in cui la Banca Centrale Europea e il governo stesso mettono dei diktat pazzeschi per cui gli investimenti non si possono fare. Oggi non si possono fare investimenti nelle città, nelle regioni, ma nello stesso bilancio dello Stato perché ci sono dei diktat europei. Noi crediamo invece che se si mettono i soldi nei posti giusti, ossia se ne verificano i ritorni, si ricorderà il famoso detto un euro investito in cultura ne tornano 8, ecco, questo è il criterio che bisogna utilizzare. Io credo che questi stessi soldi messi, parliamo di 13 miliardi nel caso di Roma, messi in altri settori, nel settore delle infrastrutture che servono davvero, nel settore del turismo, nel settore della promozione, della mobilità, eccetera, ritornino molti di più rispetto alle Olimpiadi. E questo non è solo un credo, ma è una verifica fatta di numeri. D'altronde oggi ci sono moltissimi indici economici, indici di bilancio utilizzati da tantissimi paesi tranne che l'Italia, perché nonostante il Movimento 5 Stelle tenti sempre di introdurli, troviamo sempre le porte sbarrate da parte di questo governo. Io per questo dico che credo che le affermazioni del presidente Renzi siano un'offesa agli italiani, che secondo lui dovrebbero lobotomizzarsi per 15 giorni guardando lo sport e non pensando che il governo in questo momento vorrebbe fare un investimento inopportuno e soprattutto non vorrebbe fare altri investimenti molto più utili per tutti noi italiani. Andrea Managò, giornalista del Fatto Quotidiano. È così, si rischia il fatto, come è successo a Torino, che il villaggio olimpico è in mano agli immigrati, addirittura hanno cacciato una cronista e che comunque ci sia uno sperpero di denaro pubblico. Sappiamo che le grandi opere purtroppo in Italia sono sempre accompagnate poi da scandali finanziari. Beh, salve, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Diciamo che ci sono alcuni rischi di questo tipo, soprattutto c'è il rischio che questa edizione, pensata così come è stato prospettato per ora il dossier olimpico, non lasci in eredità alla città quanto ci si aspetta, diciamo, la famosa legacy olimpica, diciamo. Si è parlato molto di Londra prima negli interventi precedenti, dove un quartiere a nord della città è stato risistemato, ristrutturato, era un quartiere maggiormente degradato, è stato lasciato un parco olimpico e comunque a un costo molto grande, perché si era partiti da 3 miliardi di sterline, si è arrivati ad 8 alla fine, e c'è questo rischio anche a Roma. Noi diciamo, con un po' di ironia, ma nemmeno tanta, insomma, abbiamo ribattezzato questo progetto i giochi del mattone. Non l'abbiamo fatto con cattiveria, ma nella consapevolezza che tutte le aree che sono state individuate nel dossier olimpico, più che a una valorizzazione, corrispondono precisamente a degli interessi di alcuni costruttori romani, diciamo. Sostanzialmente si è creato un dossier olimpico molto cucito al loro uso e consumo. Chi sono questi imprenditori romani, diciamo, secondo il Fatto Quotidiano? I grandi nomi dell'imprenditoria romana, del ciclo del cemento. Il ciclo del cemento in città vive un calo drammatico. Negli ultimi 5 anni ha perso 50.000 posti di lavoro. Quindi però sarebbero un volano per l'economia, questo mi stai dicendo? Sì, è tutto da vedere, però anche qui, diciamo, il Comitato Olimpico parla di 170.000 posti di lavoro nell'arco di 10 anni, ma in realtà poi se si va a vedere sono sempre gli stessi posti di lavoro che si ripetono nel corso degli anni, e la cosa che ci lascia perplessi, diciamo, è il vedere che puntualmente si cerca di sostanzialmente in questa città non ci sono grandi investimenti pubblici in previsione per i prossimi anni. L'unico che c'è realmente grande sono 10 anni che va avanti, è la terza linea metropolitana e va avanti tra mille difficoltà. È partito da 2,5 miliardi di costo iniziale, siamo arrivati a 4 miliardi, la linea non è affatto completa, sta subendo enormi ritardi. Diciamo, l'opportunità olimpica viene vista da molti come la possibilità di far ripartire questo settore economico, cioè sostanzialmente invece di pensare a un nuovo tipo di sviluppo in questa città, ad altri tipi di leve economiche, si cerca di tornare alla leva del mattone che per decenni ha fatto le fortune dell'imprenditoria di questa città. Ci è sembrato quindi una visione un poco limitata. Insomma, l'imprenditoria e il mattone, soprattutto come volano dell'economia, è sempre stato al centro, no, del sviluppo della città sin da quando Roma è diventata capitale, quindi c'è una lunga storia. Abbiamo con noi al telefono un radioascoltatore, Davide da Ravenna. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa ci vuole dire? È favorevole alle Olimpiadi a Roma oppure no? Ma guardi, io sarei favorevole a un qualche cosa che ci permetta così un pochino di alzare l'asticella, perché noi abbiamo visto che tutte le volte che guardiamo negli specchietti retrovisori facciamo poco, mentre invece quando alziamo l'asticella e ci impegniamo tutti quanti riusciamo ad ottenere dei bellissimi risultati. Qui dobbiamo imparare a fare un po' più squadra, perché diversamente, pensando sempre a quello che è stato, allora consegniamo il nostro paese al malaffare, non ci pensiamo più e andiamo avanti così. Quindi lei dice sì alle Olimpiadi, però controllate, no? Ma io dico che potrebbero essere una buonissima occasione per mettersi alla prova e cercare di testare dei nuovi modi di operare che ci permettano di metterci al passo con tante cose. Siamo spesso molto più bravi degli altri, il fatto che anche a Pechino, anche a Londra, le cose non siano andate bene non vuol dire che noi non dobbiamo farle un pochino meglio, e soprattutto credo che siamo capaci di capire per quale motivo in quelle situazioni le cose non hanno funzionato. Valerio da Roma, sì, la ringrazio, ho capito il suo concetto. Valerio da Roma, un altro ascoltatore, lei è favorevole o contrario alle Olimpiadi nella sua città? Buongiorno, io sono drammaticamente contrario, perché il precedente dei mondiali di nuoto di Roma, in cui si è arrivati alla fine a svolgere i mondiali di nuoto negli impianti malamente riadattati di corsa delle Olimpiadi di Roma del 60, arrivando addirittura, non dico a finire in ritardo, non dico ad avere una lievitazione dei costi che comunque c'era stata a livelli folli, ma a lasciare non finiti al punto in cui erano quando hanno terminato i soldi gli impianti dalle parti di Tor Vergata, nei quali una trasmissione come Report, che fino adesso è sempre uscita indenne da tutte le querele da cui è stata attaccata, ha rilevato addirittura che le piscine per i mondiali di nuoto erano state realizzate senza rispettare le lunghezze regolamentari. Quindi va bene, lei è contrario. Se il contesto del malaffare è questo, per quale motivo dovrei ritenere che da adesso al 2024 noi dovessimo essere il primo paese del mondo, proprio noi? Vabbè, insomma, il concetto... si rispettano i budget e in cui si ha un ritorno economico. Insomma, è un'altra Italia, è un'Italia secondo lei illusoria. Emanuela ci scrive, si parla di soldi da investire in infrastrutture, ma i fondi per le Olimpiadi sono un altro capitolo. Secondo me invece la coperta è corta, dice Sandro da Cuneo, si fanno le Olimpiadi o si fanno altre cose molto più utili agli italiani. Marco del Corona, ricordiamo... ci ha lasciato Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Vorrei poi dire ai radioascoltatori, abbiamo anche cercato il Partito Democratico per avere una voce contro o una voce a favore. Laura Castelli, abbiamo sentito due radioascoltatori con due opinioni diametralmente opposte. Lei che è contraria, la stuzzico sul radioascoltatore che ci ha detto invece potrebbero essere finalmente un momento importante per far ripartire l'economia. Guardi, ho sentito appunto il signore diceva un gioco di squadra. Qui non si tratta di un gioco di squadra, si tratta di chi fa gli appalti in una certa maniera. Tra l'altro molte delle opere che, se Roma dovesse diventare città delle Olimpiadi, saranno portate a termine, sono già appalti impostati, già pronti, quindi diciamo che la mano della vecchia maniera, quella che insomma si augura al Signore che non venga utilizzato, c'è già purtroppo. Io credo che l'opinione personale chiaramente deriva anche dalle esperienze, da quello che uno vive sulla propria pelle. Di certo i dati economici non mentono, i dati di bilancio non mentono. A differenza per esempio della Cina, l'Italia non si stampa la moneta per fare il debito pubblico, e questa è una grande differenza. Quindi quando la Cina ha deciso di dare una svolta alla propria al proprio paese, insomma al proprio momento politico, l'ha fatto stampando la propria moneta. Noi dovremmo chiederla in prestito alla Banca Centrale Europea, emettendo debito pubblico e titoli di Stato, per una cosa, un investimento che non avrà un ritorno considerevole in un momento in cui gli italiani vogliono ben altro. Vogliono ben altro, per esempio vogliono 17 miliardi all'anno investiti nel reddito di cittadinanza, vogliono i treni che possono portare i propri figli nelle proprie università, vogliono questo. Infrastrutture che rimangano. Ecco, questa è l'opinione di Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle, capogruppo, anzi siccome Laura Castelli è una purista del Movimento, ci ha tenuto a dire sono portavoce. Marco Del Corona, giornalista del Corriere della Sera, inviato per le Olimpiadi in Cina nel 2008. Dalla tua esperienza, si devono fare le Olimpiadi a Roma o non si devono fare? Io credo che confrontare Pechino con Roma sia voler confrontare le pere con le patate, come ci raccomandava di non fare l'insegnante dell'elementare, nel senso che la Cina del 2008 e degli anni precedenti era un contesto completamente altro rispetto alla Roma di adesso. Le autorità cinesi hanno considerato il loro paese, ma da Mao in poi, come una sorta di tabula rasa sul quale costruire da zero. Le Olimpiadi sono state un'occasione di questo tipo. Roma ha delle Olimpiadi in cui si tratta di adattare il format olimpico alla città e viceversa adattare la città al format olimpico, invece le autorità cinesi avevano mano libera per spianare interi quartieri, per ridisegnare le zone intere della città e delle regioni circostanti, e io ritengo che sia un esercizio un po' sterile esercitare così il desiderio di paragonare le due realtà. La Cina aveva una quantità di denaro e la possibilità di mobilitare delle energie lavorative, economiche, finanziarie, militari persino, perché l'esercito ha sempre un ruolo importante nella pianificazione di queste operazioni, che non è in nessun modo paragonabile a quello di Roma, per cui io onestamente preferirei non... penso che sia un esercizio sbagliato. Ok, paragonare. Un sì o un no? Sei favorevole personalmente alle Olimpiadi a Roma oppure no? detto che non capisco nulla di questi argomenti, sì, sarebbe bello vedere la maratona che passa dai fori imperiali, però credo che sia un cimento un pochino complicato per la città, quindi mi preferirei astenermi proprio perché non saprei fare i conti in tasca alla città. Andrea Managò, giornalista del Fatto Quotidiano, a te chiedo la stessa cosa: come personalmente, come giornalista, sei favorevole alle Olimpiadi a Roma oppure no? Guarda, personalmente le Olimpiadi, come a tutti, mi piacciono molto, credo però che questo progetto nello specifico non risolverebbe alcuni di quelli che sono i problemi fondamentali di questa città e soprattutto quelli di mobilità, perché questo progetto prova a sanare alcune ferite urbanistiche che sono rimaste in città proprio da precedenti eventi andati a male, soprattutto i mondiali di nuoto del 2009, perché diciamo la parte più rilevante di questo progetto è completare la vela progettata da Santiago Calatrava in un quartiere molto periferico della città, che è stata iniziata per i mondiali di nuoto del 2009 e mai finita. Ho capito, quindi sei contrario. Allora, ricordiamo che i nostri radioascoltatori con i vostri sms sono un po' divisi a metà tra contrari e favorevoli alle Olimpiadi a Roma. Ringrazio Marco Del Corona, giornalista del Corriere della Sera, inviato alle Olimpiadi in Cina nel 2008, Laura Castelli, deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Managò, giornalista del Fatto Quotidiano, e noi ci sentiamo subito dopo il GR. Ma cos'è quest'estate? E noi cambiamo decisamente argomento: dalle Olimpiadi passiamo a qualcosa che ha a che fare col costume, ma non solo, perché ci sono state parecchie polemiche la scorsa settimana dopo i due femminicidi che hanno purtroppo che sono accaduti nel nostro paese per una campagna pubblicitaria. In un negozio di scarpe ha pubblicizzato un paio di stivali, non so come poi chiamarli, con un'immagine alquanto raccapricciante. Si vede una donna stesa a terra come se fosse stata violentata, ed è insorta Flavia Perina, ex direttrice del Secolo d'Italia. Ecco Perina, tu hai fatto un post su Facebook molto critico riguardo a questa pubblicità, hai detto questo tipo di pubblicità poi istigano al femminicidio, è così? Non esattamente, diciamo, questo tipo di pubblicità dimostrano il basso livello di attenzione e di sensibilità che c'è verso il tema delle donne violentate o ammazzate o comunque colpite da abusi. In un paese dove il livello di sensibilità fosse più alto, nessun pubblicitario, nessun creativo, nessuna azienda, neanche piccolo o piccolissima, immaginerebbe di fare una pubblicità così. Mentre invece in Italia questo tema è così tralasciato e appunto è così marginale che viene considerato probabilmente normale. Chi ha fatto quella pubblicità immaginava addirittura che potesse essere un'immagine accattivante quella di una donna sdraiata per terra con i pantaloni semicalati e palesemente una donna in difficoltà, una donna aggredita in qualche modo. Ecco Flavia, c'è stata questa pubblicità che erano proprio c'è stata questa immagine che era veramente raccapricciante, un paio di scarpe nere di cuoio con zip laterale a zeppa alta, lei con questi jeans sfilati, ma non è la prima volta che questo avviene, perché anche c'è stata l'ex ministro Elsa Fornero che bloccò la pubblicità dello straccio magico perché istigava al femminicidio. In quel caso c'era una donna riversa sul letto che sembrava morta e poi un uomo con questo straccio che diceva elimina tutte le tracce, come a dire l'ho uccisa, però poi ha usato lo straccio magico e queste tracce sono state eliminate. Perché poi la pubblicità ha necessità ogni volta di pubblicizzare la donna anche in questi contesti capriccianti? Ma il primo motivo è perché c'è una mancanza totale di creatività positiva, nel senso che si usano argomenti shock per far parlare, probabilmente per circolare sui media, e viene considerata comunque pubblicità, quindi si parli di me purché, anche male, purché se ne parli. E questa è una logica molto antica, perché noi sappiamo che oggi in tutto l'Occidente avanzato prodotti che fanno questo tipo di pubblicità vengono rifiutati dalle donne, cioè nessuna donna, e poi lo straccio magico in particolare è un genere che generalmente comprano le donne al supermercato, una donna passa oltre, sceglie un'altra marca, sceglie un'altra cosa. Quindi è anche controproducente. Adesso secondo me è fortemente controproducente, mentre qualche anno fa questo tipo di pubblicità shock forse poteva funzionare, farsi vedere, eccetera. Adesso è totalmente controproducente, perché tra le donne la sensibilità verso questo tema è molto alto, anche tra le giovani donne. Perché poi è oggettivo il fatto che in Italia esista un problema di violenza sulle donne, esista un problema di aggressione, di prepotenza, di difficoltà delle donne che si sentono sempre meno sicure, non soltanto in contesti esterni, ma molto spesso anche in contesti familiari. Ed è quindi evidente che questo tipo di informazione pubblicitaria comunque riduce una fetta di pubblico. Cioè, non credo che nessuna donna abbia piacere di riconoscersi nell'immagine di una ragazza semisvenuta, sdraiata per terra, e probabilmente appunto aggredita o violentata in qualche modo, oppure in uno straccio che cancella tracce di sangue. Lorella Zanardo, attivista per i diritti delle donne, ha anche un blog, Il Corpo delle Donne, e ha scritto proprio Il Corpo delle Donne, edito da Feltrinelli. Nella pubblicità noi vediamo sempre l'oggettivizzazione di questo corpo delle donne, anche le copertine non solo delle riviste patinate, ma anche dei grandi settimanali come Panorama, come L'Espresso, che molto spesso c'è la donna in bikini, c'è la donna tatuata. Quando se ne uscirà? Lorella, è in linea? Ci ha lasciato, almeno non siamo riusciti a sentire Lorella. Flavia, ritorno su di te per dirti una cosa. Hai visto, nello scorso weekend c'è stato questo imam che istiga anche alla poligamia. Ha detto, adesso che sono stati fatti i diritti civili, le unioni civili, allora si può fare anche il matrimonio con poligamia come è deciso nell'Islam. Ma una palese stupidaggine, una cosa fuori dalle righe, detta da una persona che è stata rimessa a posto giustamente con molta durezza un po' da tutti, perché è ovvio che tutto questo non sarebbe ammissibile e non è ammissibile. La visione musulmana della donna non è la visione né dell'Europa né dell'Occidente, e questo tipo di linea è totalmente da respingere. Detto questo, sul tema del corpo delle donne sono anche immagini positive del corpo delle donne. Voi prima avete mandato un lungo servizio sulle Olimpiadi, l'immagine della modella Giselle, molto bella, che cammina a testa alta e sfila in passerella con questa canzone bellissima, La ragazza di Ipanema, applaudita da tutto il pubblico, è un'immagine che evoca la bellezza femminile, evoca il corpo delle donne, ma la evoca come dato di orgoglio, sicurezza di sé, di autodeterminazione. Quindi non è l'uso del corpo della donna, talvolta è abuso, talvolta è anche una forma di rivendicazione positiva. Bisogna stare molto attenti a non fare tutto erba o fascia. Ricordiamo il numero dei nostri sms 349-238-6666 e poi il numero verde 240024. Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Sono sicura che senza questa pressione continua sul dover essere belle, secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremo molto di più per quel che siamo. E se è vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo questi corpi? Lorella Zanardo, finalmente con noi, attivista per i diritti delle donne, ha anche un blog, appunto Il Corpo delle Donne, e ha scritto un libro, Il Corpo delle Donne. Partiamo da un dato di fatto: la nostra è la nazione che ha dato i natali a Michelangelo, ha dato i natali a Caravaggio, quindi c'è un'attenzione all'estetica. Quando è che questa estetica diventa una schiavitù per le donne? Ma diventa, io direi, con la fine degli anni 70, primi anni 80, con l'avvento delle TV private, ma non perché siano le TV private sbagliate, assolutamente, ma perché si inizia e questo poi sfocia nelle TV nazionali e in Rai, si inizia a proporre il brutto. Noi siamo il paese di Michelangelo, saremmo il paese della bellezza, ma siamo anche il paese che ha una proposizione ossessiva, e continua ad essere così, su tutte le reti di bruttezza. In che senso? Propone spesso corpi di giovani bellissime, ma in modo brutto, osceno. Una delle cose che noi insegniamo nelle scuole con i corsi di media education è che la telecamera spesso imbruttisce. Abbiamo di fronte a noi un corpo di ragazza stupendo, che non ci sarebbe nulla di male a mostrarlo, e improvvisamente la telecamera inquadra dal basso, quello che ho definito le riprese ginecologiche, proponendo sullo schermo dei pezzi di carne. Tutto questo spesso viene chiesto se è in qualche modo collegato alla violenza. Certamente non si può dire che le immagini siano origine della violenza, ma contribuiscono a creare un'idea di corpo femminile che gli inglesi hanno definito tokenism, che vuol dire parcellizzato. Non c'è più la donna nella sua bellezza, nella sua interezza, anche in costume da bagno, anche nuda. Il nudo non ha nulla di sbagliato, ma improvvisamente viene proposto a tutto schermo un seno, una chiappa, una coscia. Si chiama tokenism, parcellizzazione, ed è il processo che porta poi all'oggettivazione. Ecco perché queste pubblicità di cui stavate parlando sono pubblicità in qualche modo pericolose, ed è giustissimo che vadano stigmatizzate, perché portano a considerare la donna un insieme di pezzi. Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera, esperta di moda, costume, dov'è la barriera, dov'è il limite? Dove dobbiamo poi alla fine fermarci nell'oggettivizzazione del corpo delle donne? Ma guarda, io credo che il limite lo vediamo tutti istintivamente, no? Quando parlavate prima appunto della pubblicità fatta da questo negozio di Frascati, è scattato immediato è scattata immediata la rivolta su internet, no? Perché tutti hanno immediatamente capito che quello non poteva passare, cioè non può passare l'idea di pubblicizzare delle scarpe con uno stupro. Addirittura qui siamo andati molto oltre rispetto al tema del corpo femminile, perché si è pubblicizzato con l'immagine dell'abuso addirittura del corpo femminile. Si sono fatte leggi per cercare di arginare questo fenomeno. Io credo che le leggi servano fino a un certo punto, bisogna coinvolgere molto, molto di più le ragazze nel momento in cui crescono, perché l'adolescenza è il loro momento veramente critico, non solo delle ragazze ma anche dei ragazzi. Si parla sempre dell'immagine che riguarda le ragazze, ma i ragazzi vivono, i maschi intendo, lo stesso identico problema, tant'è vero che l'anoressia per esempio coinvolge sempre di più anche i ragazzi, perché diciamo che con l'avvento di internet, prima Lorella Zardo parlava della televisione, dell'avvento della televisione privata, e io condivido moltissimo questa analisi. L'avvento di internet, i like, questa moltiplicazione all'infinito dell'immagine, no? E il fatto di esserci, di identificarsi, avere un'identità in quanto si è diciamo ben voluti su internet, ecco, questo riguarda moltissimo anche i ragazzi. E cosa bisogna fare? Bisogna stargli, secondo me, vicini e insegnargli che l'identità non dipende dal corpo. Lorella Zanardo, è così, l'identità non dipende dal corpo, e abbiamo visto che c'è anche una campagna per le modelle curvy, quelle un po' abbondanti. Sì. Poi questa modella curvy americana, che era molto famosa, aveva molti like, ha fatto la cura dimagrante e tutti quanti hanno detto traditrice. Ecco, sì. Ci sono anche questi casi limite, però si è cominciato a capire, e forse gli stilisti dovrebbero cominciare a capirlo, perché continuo a vedere delle pubblicità raccapriccianti dove le donne sono troppo magre, che la donna poi è vero che ha la costrizione della taglia 42, ma non 38, 42. Sì, bisogna lavorare sugli stilisti. Quello che noi facciamo, sono importanti che ci siano trasmissioni come queste, perché aumentano il livello di consapevolezza e acquisire noi donne autostima, perché quando partono le pubblicità delle donne curve, io sono assolutamente contenta, essendo anch'io un po' curvi, quindi dico bene, però non è esattamente questo. Quello su cui bisogna lavorare non è tanto, perché poi si rientra in un altro modello ancora, no? È far crescere le ragazze e i ragazzi, sono d'accordissimo, con una contentezza di sé, con una centratura che non deve essere, può essere anche sul corpo, ma non per forza sul corpo imposto, con una gioia che deriva dall'avere un corpo sportivo, da un avere un corpo scattante, da un avere un corpo muscoloso. Mi è piaciuta molto quel hashtag che è partito qualche giorno fa di ragazzine afroamericane, We wear what we want, indossiamo quello che vogliamo, dove tutte si mettevano allegramente gli short, perché alle ragazzine piace mettere gli short, e chi l'ha detto che bisogna avere le gambe anoressiche per metterlo? Quindi il vero lavoro da fare è nelle scuole, e speriamo anche qualcuno delle istituzioni ci stia ascoltando, è insegnare a leggere le immagini e a non farsene e a non rendersi succubi di questo, perché noi qui siamo consapevoli, e meno male che se ne parla alla radio. Poi nelle scuole quello che noi incontriamo spesso è tanta sofferenza, che io ci tengo a dirlo. Per una ragazzina non rientrare nel modello unico, il modello unico che impera in televisione ma in internet, quindi seni abbondanti, fianchi inesistenti, pancia rientrante, cosce anoressiche, è dolore, è se non appaio nel modo giusto non esisto. Quindi urge che parte dalla scuola. Perché dalla scuola? Perché non tutti i genitori sono competenti, non nasciamo diciamo competenti su questi temi, questo, e poi insegnare anche quello che sta accadendo qui. Ecco, vi chiederei solo di fare attenzione su una cosa: questa trasmissione 6 anni fa non ci sarebbe stata. Quindi la consapevolezza che c'è oggi non c'era anni fa. Anni fa ci sono state tante pubblicità come quelle che voi avete raccontato, ma nessuno le notava, non c'era consapevolezza. Anche nel mio documentario ci sono delle immagini che adesso denunceremo, la ragazza appesa come in un campo di concentramento che viene stampata sul gluteo. Ecco, lavorare sulla consapevolezza, parlarne, far sì che anche le piccole, le ragazzine e i ragazzini siano consapevoli di cosa fa loro male, serve tantissimo. E denunciare, per esempio, una cosa positiva che ho notato questa mattina, e anni fa non accadeva, che abbiamo raccontato una pubblicità ma non ne abbiamo fatto il nome, perché questo è il gioco un po' che fanno i pubblicitari con poco budget e zero creatività, e in qualche modo creiamo lo scandalo e anche la radio ne parlerà. Invece l'avete raccontata senza nome, questo è molto sano, anni fa non succedeva. Quindi la cosa positiva che vorrei dire è che avendone parlato tanto, oggi c'è più consapevolezza tra le consumatrici e i consumatori di quanto accadeva anni fa. Flavia Perina, abbiamo sentito Lorella Zanardo e dice oggi c'è più consapevolezza, le ragazzine si devono poter mettere gli shorts anche se sono un po' cicciottelle, non bisogna rientrare in questa taglia 42 che stritola tutte le ragazzine, oltretutto ci sono dei modelli falsati, perché è quello che ci descrive Lorella Zanardo, una donna che ha il seno però ha le gambe anoressiche, anche un po' difficile in natura trovarla. Come se ne esce? Perché da una parte le donne sono schiacciate da questo modello estetico in Occidente, invece nei paesi arabi sono schiacciate dal velo, quando poi nei casi più estremi invece dal burqa e da cose che purtroppo limitano la libertà delle donne. Come se ne esce? Ma innanzitutto bisogna cominciare a dire alle ragazze, e su questo sono perfettamente d'accordo con Lorella Zanardo, che ha fatto un lavoro importantissimo sul tema del corpo delle donne, perché non staremo qui a parlarne se non ci fosse stato anche il suo lavoro. Bisogna cominciare a dire alle ragazze che questo modello è irraggiungibile, perché è un modello che non esiste in natura, è come la Barbie con cui giocavamo da piccole. Donne così non esistono in natura, possono essere frutto, non so, di ripetuti interventi di chirurgia estetica, ma sicuramente il modello che ci viene proposto, che tra l'altro è un modello molto lavorato anche con Photoshop, con sistemi, con metodi di il miglioramento delle immagini, neanche la più bella, anche Giselle, se la fotografiamo al naturale, probabilmente non è così perfetta come appare su una, sulla copertina di una rivista o su una foto su internet. E questa è una consapevolezza che bisognerebbe diffondere, perché nell'età dell'adolescenza ci si confronta con tutto questo ed è un'aspirazione che non sarà mai raggiunta, non si potrà mai essere così. Bisogna puntare su altre cose. Il tema del mondo islamico è molto più complesso della questione del velo. Io ho avuto un'esperienza personale recente, mia figlia ha fatto un lungo viaggio da sola con un'amica e a un certo punto questo viaggio è anche un po' complicato perché era un lungo trekking alle pendici dell'Himalaya, ha incontrato una ragazza musulmana laureata in medicina che ha viaggiato con loro sempre col capo coperto da una sciarpa e che però era una ragazza che viaggiava da sola, perfettamente normale secondo il nostro canone, viaggiava da sola da mesi girando paesi molto spesso complicati ma aveva una totale indipendenza psicologica. Nella sua scelta religiosa c'era il fatto che girava con il capo coperto, quindi siamo attenti a non confondere anche nelle tradizioni, nelle abitudini, nelle convenzioni dell'Islam. Ci sono diversi modi di fare le cose. Una cosa sono le donne del Qatar o dell'Arabia Saudita obbligate dai loro mariti a mettersi il vestaglione che copre tutto fuorché gli occhi, una cosa sono molte ragazze musulmane che lo fanno per scelta e che hanno vite perfettamente indipendenti, studiano, lavorano, viaggiano esattamente come le nostre figlie. Maria Silvia Sacchi, giornalista del Corriere della Sera. Qui si pone una visione della donna stretta tra Occidente e abbiamo visto Medio Oriente. Ci sono state anche delle affermazioni sulla possibilità, la richiesta di fare dei matrimoni con poligamia in Italia durante questo weekend, ovviamente subito affossate. C'è questo rischio per la donna che non riesca più a trovare una sua identità tra una 42 e un corpo assolutamente perfetto in Occidente e invece un velo in Medio Oriente? Io personalmente sono abbastanza ottimista, nonostante l'elenco sterminato, ogni giorno vediamo che c'è un'uccisione, un caso di violenza. Sono ottimista perché si parla di questo argomento, cosa che effettivamente è vero, 15 anni fa non era, il dibattito non era così forte, si sta molto attenti a tutte queste tematiche, quindi io sono ottimista, sono convinta anch'io che la scuola sia il luogo deputato, l'unico luogo dove si può veramente fare cultura, oltre che nei giornali, i media hanno un ruolo assolutamente fondamentale nel uscire da questo meccanismo della donna oggetto. Noi spesso alla ricerca del click mettiamo magari delle immagini che non sono quelle corrette, no? Quindi c'è anche un lavoro all'interno dei giornali su questo. Sono ottimista perché abbiamo dei modelli positivi, Michelle Obama è un modello positivo, la stessa Clinton è un modello positivo se vogliamo andare all'estero, lo sport, anche se ci ha dato qualche esempio negativo nel tennis in questo momento, però è un modello di ragazze, di donne molto positive, quindi io credo che si debba lavorare, sono ottimista, si deve lavorare molto sui modelli e aiutare le ragazze e ragazzi ad essere autonomi, cioè a trovare una propria identità, una propria autonomia. In particolare le ragazze devono sapere che devono essere autonome. Io credo che se una persona è autonoma e si sente autonoma, come conseguenza è meno sottomessa al giudizio degli altri. Flavia Perina, abbiamo visto questa dicotomia, no, sul corpo che una donna vorrebbe avere e che poi in realtà nella vita non ha. Quando è che la mentalità è cambiata anche delle ragazze? Perché io vedo invece una libertà maggiore nelle giovanissime generazioni. C'è chi mette leggings, c'è quella magra, c'è quella un po' cicciottella, insomma si sta andando forse nelle giovanissime, la fascia tra i 18 e tra i 15 e i 18 anni, verso una maggiore libertà. Mi accetto così come sono, anche se sono qualche chilo in più. Ma no, io questo non credo. In realtà io vedo nella maggior parte delle ragazze, sì, ovviamente uno poi mette leggings, mette i calzoncini o che altro, però c'è una sorta di ossessione per il miglioramento del corpo e per l'adesione a degli standard che molto spesso appunto sono irraggiungibili e ha raggiunto vette che prima noi non conoscevamo, e questo sicuramente è legato alla comunicazione di massa, alla stessa rete che propone modelli che prima uno vedeva magari, non so, l'immagine della principessa bellissima sulla copertina di Il Vecchio Gente piuttosto che La Domenica del Corriere, adesso sono diventati un tantam ossessivo su tutti i social media, sui giornali, sulle home page dei principali organi di stampa, per cui pare che sia doveroso in qualche modo essere così, e soprattutto pare che sia possibile essere così, perché poi è un continuo tantam sul tema delle diete, il miglioramento della pelle, gli integratori, quindi c'è un grande business che ruota intorno alla bellezza, e il business si esprime in questa modalità. Non essere prigionieri di questa sorta di consumismo del corpo è una appunto delle cose che andrebbero insegnati fin da piccoli, sia nell'educazione familiare, sia nell'educazione scolastica. E io credo che una grandissima risorsa sia anche il tema dello sport. Lo sport aiuta a migliorare se stessi, a migliorare il proprio corpo, le proprie potenzialità in modo positivo, mentre ci sono altre forme di cura estetica, e penso anche a certi eccessi della chirurgia estetica. Noi oggi abbiamo ragazze qui per il 18° compleanno, vengono regalati i soldi per l'intervento non più al naso come era una volta, perché magari aveva un nasone, però per farsi una taglia in più di seno, per farsi sedere, che sono delle cose insomma più così a 40 anni è diventata un'infezione. Insomma, più sport e meno estetica. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? Due ragazzi di 13 anni sono morti dopo un volo di oltre 40 metri. Forse sono scivolati sull'erba durante un'escursione sulle montagne di casa. L'allarme è partito attorno alle 21, quando il nonno di uno dei due ragazzini non li ha visti tornare nella baita in alta quota, dove avrebbero dovuto trascorrere la notte tutti insieme. Subito sono partite le ricerche, il soccorso alpino, i vigili del fuoco, tantissimi volontari. Persino il sindaco di Val d'Aone si è unita ai soccorritori. Ma verso mezzanotte la speranza di ritrovarli sani e salvi è svanita. I corpi dei ragazzi sono stati ritrovati uno accanto all'altro, dal padre di uno dei due, in fondo a una scarpata. Erano amici, uniti dalla passione per la montagna, e la Malga del Trentino per loro era la zona di casa. Questa doveva essere una gita insieme, prima di iniziare, a settembre, la terza media. Parliamo adesso di sicurezza in montagna. Abbiamo sentito purtroppo quello che è avvenuto la scorsa settimana, il volo di Fabio e Federico, ma anche è successo in questo weekend due alpinisti morti di freddo sul Cervino, sono stati ritrovati due inglesi. Abbiamo in linea Alberto Ghezzi, comandante dei Vigili del Fuoco di Daone, era lui sul posto che è intervenuto proprio per questi due ragazzi. Cosa è successo e che cosa bisogna evitare perché queste tragedie purtroppo si ripetano? Ma quello che è successo è una dinamica che sono tante le domande che ci facciamo e purtroppo non siamo arrivati a un risultato. Il posto dove sono caduti i ragazzi è un posto panoramico dove si vede benissimo la baita del nonno, e niente, dai sopralluoghi che abbiamo fatto non riusciamo neanche a capire di cosa sia successo. Ma noi siamo montanari, abitiamo in montagna, e la sicurezza in montagna è, secondo me sono solo tragici destini che succedono, nel senso, star qua a dire ci vogliono gli scarponi, ci vuole qua, ci vuole là, va bene, sono tutte cose che noi adottiamo e facciamo, nel senso, la montagna è bella, a volte ti toglie quello che di più è caro, insomma, di più non saprei cosa aggiungere. Comandante, ma lei pensa che in questa vicenda questi due ragazzi avevano 12 e 13 anni, sono morti dopo essere precipitati per un centinaio di metri, forse questi due ragazzi non dovevano andare da soli, non c'era nessuno che li seguiva? È vero che si scia, che si va in montagna quando si è della zona anche a quest'età da soli, però forse qualcosa si poteva fare. Ma penso proprio di no, perché lì praticamente erano vicini alla baita, nel senso un ragazzo, Fabio era, cioè nel senso, già quando c'è andato l'allarme per Fabio, secondo, quando stavamo salendo dalla strada forestale con i miei ragazzi, nel senso, nella mia testa pensavamo impossibile che Fabio si perda nei boschi, nel senso, pensavamo che si fossero fatti male, e non pensavamo una cosa del genere, perché Fabio seguiva tanto il papà, e nel senso, era un ragazzino che, cioè, in montagna non era proprio... Però era un ragazzino, aveva 13 anni, quindi forse... ma tutti noi da ragazzini che siamo vissuti qua abbiamo frequentato la montagna ancora da giovani, nel senso, io penso che questo sia solo una fatalità e basta, nel senso, non penso che sia stata una cosa, questo lo posso dire perché viviamo qua e viviamo, cioè vediamo la cosa in un modo diverso da come possono vederla gli altri, nel senso, noi cominciamo ancora, essendo qua, la nostra, non abbiamo nient'altro, abbiamo la montagna, basta, non abbiamo nient'altro noi, nel senso, quindi... paesini di montagna e viviamo solo qua. Quindi lei dice è normale che due ragazzini di 13 e di 12 anni vadano poi a fare escursioni da soli? Sì, perché poi, ma sì, perché poi lì c'era una malga, nel senso, erano vicini a casa e secondo me è una cosa normale, nel senso, cose che facevamo anche noi da piccoli, non c'è niente di strano. E invece però che cosa poi alla fine è andato storto, visto che voi lo facevate da piccoli, però poi questi ragazzi non ci sono più? Che cosa è successo? La fatalità qual è stata? Questo penso proprio che abbiamo fatto è solo un punto panoramico dove si vede, come ripeto, la baita del nonno. Non so cosa hanno fatto, non so se si sono trascinati giù uno con l'altro, non lo so, nel senso, male, hanno perso l'equilibrio, questo non lo so, non posso dire queste cose qua perché sono tante le ipotesi. Dopo c'era anche l'ipotesi dell'orso, ma sono cose che abbiamo scartato già dall'inizio, nel senso che dalla verifica che abbiamo fatto sabato non ci sono tracce, nel senso, perciò è solo una fatalità e basta, insomma. Grazie al comandante dei Vigili del Fuoco di Daone, che era sul posto proprio quando non ha potuto salvare Fabio e Federico, tredicenni che scattavano foto in quota e che purtroppo per una tragica fatalità, come ci dice il comandante, non ci sono più. E Elio Guastalli, responsabile del progetto di CAI e Soccorso Alpino Sicuri in Montagna. Il progetto prevede, tra le altre cose, l'organizzazione nel mese di giugno di ogni anno della giornata nazionale sicuri sul sentiero. Cosa bisogna fare per passeggiare sicuri in montagna? Bene, premettiamo che la sicurezza in montagna, così come in tanti altri ambienti naturali e in tante circostanze, pensiamo agli incidenti sul lavoro, agli incidenti stradali, la sicurezza di per sé non può essere mai assoluta. Noi pensiamo, visto che ci occupiamo anche di soccorso, che è comunque un dovere morale per ogni persona tendere ad un ragionevole grado di sicurezza. Poi è chiaro che succedono, e ne abbiamo avuto la prova anche in questa discussione che mi ha preceduto, succedono terribili fatalità, e a valle degli incidenti esprimere giudizi o dare consigli è tanto facile quanto inopportuno. Chi è vittima di incidente in montagna, così come in altre circostanze, merita solo rispetto, così come meritano rispetto i genitori e i parenti che rimangono coinvolti in queste circostanze. Va da sé che la sicurezza in montagna è comunque da ricercare attraverso una preparazione personale, ma attraverso, che so, lo studio dei percorsi che andiamo a fare, attraverso una ragionevole rinuncia quando percepiamo che le cose non vanno per il meglio, e tutto questo passa sicuramente attraverso un'esperienza che deve essere condivisa con chi l'esperienza ce l'ha già. Poi non dobbiamo escludere, e ritorno ancora a ricordare con tristezza chiaramente i fatti recenti, che succede l'imponderabile. E non è mai il caso di andare a sindacare oltre ciò che è ragionevole, ciò che è possibile, quel che è successo. È chiaro che quando succedono incidenti, ma non solo in montagna, spesso e volentieri abbiamo un fattore di imprudenza o comunque un fattore che non siamo riusciti a valutare, e questo alla fine lo dobbiamo anche accettare. Noi con questo progetto, come Soccorso Alpino, come Club Alpino Italiano, cerchiamo, soprattutto attraverso le due giornate, una è quella che ricordava lei a giugno, l'altra è a gennaio, per la parte relativa alla frequentazione della montagna innevata, cerchiamo di creare attenzione e sensibilità per trovare un giusto equilibrio, perché la montagna ci appartiene, è un bene essenziale. In montagna anche i ragazzi possono crescere con tanto entusiasmo, ma con una equilibrata prudenza, ecco, tutto lì è un fatto di cultura. La prevenzione anche in montagna si può imparare, insomma, a vivere con il concetto della prevenzione, che peraltro poi dobbiamo trasferire in tante circostanze, sul lavoro, per la strada e via di seguito. Sì, io la interrompo però, Guastalli, perché questo weekend ci sono stati altri morti, due alpinisti morti di freddo sul Cervino, sono due inglesi che erano dispersi da giovedì sera e i loro corpi sono stati recuperati a circa 4.000 metri. Poi in Trentino, sulle Pale San Martino, un 71enne è precipitato da una via ferrata. Ecco, in questo caso, per esempio nel caso del 71enne, forse l'età avanzata può aver provocato questa cosa? Chissà, può essere, perché mi viene in mente, e lo dico, c'è una casistica di incidenti che per il soccorso alpino costituiscono un vero problema, che è quella a carico dei cercatori di funghi, dove molti anziani, o per malore o per scivolata, c'è ancora in uso l'abitudine sicuramente poco appropriata di utilizzare ad esempio anche su pendii di erba o di roccia stivali di gomma, e lì gli anziani, anche lo ricordavo prima, per malore a volte rientrano nelle casistiche degli incidenti. Sono più i cercatori di funghi che muoiono per scivolate che quelli che finiscono sotto le valanghe, insomma. Va da sé che ognuno deve essere prudente per se stesso, ecco, dai ragazzi agli adulti, agli anziani. Prudente ed equilibrato in quello che in montagna si va a fare, ma guardi che la stessa cosa succede per le strade, succede in mare aperto, no? Succede in tutte le situazioni, dove giustamente noi abbiamo il dovere di parlare di sicurezza, senza pensare, perché le cose non vanno confuse, che è possibile creare uno stato di sicurezza assoluta al 100%. La sicurezza passa attraverso la nostra cultura, e quindi la nostra prudenza, la nostra ponderazione. Guastalli, sempre e comunque. Che impressione ha avuto, che opinione si è fatto della morte di Fabio e Federico, ricordiamo 12 e 13 anni, che sono precipitati in un dirupo in Val d'Aone? Che impressione vuole che mi sia fatto? Una grande tristezza, tutto qua, ecco, e una grande vicinanza ai genitori. Ma pensa che dovevano essere accompagnati, erano troppo giovani? No, io credo che i ragazzi erano nel loro ambiente naturale, che frequentavano d'abitudine, peraltro non è che sono precipitati da chissà quale parete vicino alla baita del nonno, ci vuole solo vicinanza a loro, che ahimè purtroppo hanno pagato così caramente, ma anche a tutti i familiari. Alberto Ghezzi, comandante dei Vigili del Fuoco di Daone, abbiamo sentito Guastalli che ci dà un input molto importante. Si apre la stagione dei funghi, attenzione comunque ad andare in montagna ben attrezzati, non con gli stivali di gomma, ma bensì con le pedule, con le scarpe da montagna, è così? Sì, no, concordo con quello, che ha detto il responsabile del Soccorso Alpino. Insomma, sì, quando ci sono la stagione di funghi, gli incidenti, specialmente anche le ricerche persone, sono frequenti, insomma. Dopo, sì, è vero, cioè, no, guardi, concordo pienamente con quello che ha detto il responsabile del Soccorso Alpino. Ci vuole più prudenza, è logico che in montagna non si va né con gli stivali assolutamente, ma ci vogliono i scarponi, come ho detto prima, insomma, ecco. C'è anche un tema di tempo, cioè bisogna ricordare che a mezzogiorno, no, c'è sempre questa vulgata popolare, il tempo cambia, quindi non bisogna poi attardarsi troppo. Cioè... Sì, di solito anche noi da montanari, quando andiamo in montagna, diciamo che ci andiamo tutti i giorni, specialmente in questi periodi qua, cerchiamo sempre di partire presto e tornare presto per il discorso del pomeriggio, i temporali, quelle cose qua, vabbè, nel senso, dopo... Anche noi ci siamo trovati in difficoltà in montagna, ma da montanari, nel senso, insomma, riusciamo sempre, siamo riusciti a tornare a casa, insomma, però sono cose... Quindi chi è cittadino e viene a passeggiare in montagna deve seguire determinate regole, abbiamo capito. Mettere certo, l'attrezzatura questo... giusta, portare l'attrezzatura giusta con le scarpe da montagna che non scivolino. E avere sempre in mente di partire presto e tornare presto. Queste sono proprio la Bibbia del montanaro. Sì, questo è quello che facciamo noi, nel senso, dopo so che anche il CAI e anche le SAP, nel senso, informazioni ne danno, nel senso, noi non ne diano, dopo... Il turista di solito, essendo in ferie, insomma, se la prende un po' comoda, vabbè, insomma, è così, non è che quello che possiamo consigliare, quello che facciamo noi, è che quando andiamo in montagna, non è che partiamo, noi partiamo sempre presto e cerchiamo di tornare prima, innanzitutto la cosa importante è che anche noi montanari, prima di muoverci e fare certe escursioni, ci confrontiamo, guardiamo sempre i bollettini meteo, questo è importante. Importante, grazie per i consigli. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? Continuiamo a parlare di montagna, ma questa volta continuiamo proprio per parlare di turismo, per parlare di esperienze anche positive. Alcuni radioascoltatori ci scrivono e ci dicono: ma lei non è mai andata in montagna a passeggiare, bisogna dire che passeggiare in montagna è bellissimo. Io dico che è stupendo, non bellissimo, e abbiamo semplicemente voluto dare alcuni consigli per passeggiare sicuri, proprio perché è un'esperienza unica. E parliamo con Salvatore Cannavò, accompagnatore CAI da 7 anni, e farà una selezione per diventare guida vulcanologica, perché la montagna non sono solo le Alpi, ma è anche un vulcano che fuma, un vulcano che si vede da lontano, che è alto 3.000 metri, che si chiama Etna. Buongiorno Salvatore, che cosa fa lei? Porta le persone a passeggiare su questo vulcano? Buongiorno innanzitutto, realmente faccio appunto la guida, faccio l'accompagnatore di escursionismo da 7 anni all'interno del CAI. Sto partecipando a questa selezione per prendere l'abilitazione alla professione di guida vulcanologica. Sì, l'Etna, come ha appena detto lei, è oltre 3.300 metri, e in questo è importante, ricollegandomi al discorso che avete fatto prima, la sicurezza e la prevenzione. Ecco. Io consiglio di andare sull'Etna innanzitutto con gente che... cioè di affidarsi a figure professionali riconosciute, ecco, non andare sull'Etna così improvvisati o farsi accompagnare da associazioni varie che magari accompagnano senza titoli o con titoli inventati da loro stessi, perché l'Etna appunto è nel più alto vulcano attivo d'Europa, e quindi oltre ad essere una montagna da 3.000 metri. Quindi insomma, ci sono la sicurezza. Ci sono due livelli, no? Perché poi ci sono questi due vulcani turistici in Italia, che sono tutte e due in Sicilia. Uno è Stromboli, dove si va a vedere la sciara dal mare e queste esplosioni ogni quarto d'ora bellissime, e l'altro è l'Etna, che però abbiamo detto è attivo. Poi mi curiosiva molto questa cosa siciliana, per cui lo Stromboli è maschio e l'Etna è femmina, è così? Eh beh, è un modo che abbiamo noi di chiamarle, sì, perché per noi l'Etna è chiamata la montagna, cioè la chiamiamo direttamente la montagna, quindi al femminile, la montagna per eccellenza. Idda, per noi. Come si dice a Catania? Come... Idda fuma. Idda fuma, sì, è così, per noi è il femminile, la montagna la chiamiamo, non abbiamo nemmeno un vero nome, per noi è la montagna. E invece Stromboli è Iddu. Stromboli, sì, è detto al maschile. Che è più piccolo, poi tra le altre cose è tutto, è poi più piccolo, però anche lì non da sottovalutare, essendo comunque 900 metri di altitudine e di altezza, e quindi dal mare a arrivare in cima c'è una bella scarpinata. E noi però vogliamo anche andare, Cannavò rimanga con noi perché le montagne appunto sono tante in Italia, in Val Gardena con Herman Comploy, che è guida alpina di Gardena Guides, associazione guide alpine della Val Gardena. Quali sono le escursioni che i turisti in questo momento le chiedono? Si va a passeggiare, poi magari si entra in un rifugio, si mangiano i canederli e si deve poi ripasseggiare per bruciare tutte le calorie che si sono prese? Buongiorno dalla Val Gardena, qui stiamo un tempo bellissimo e c'è molti turisti che hanno riscoperto le montagne, le Dolomiti, e proprio dagli ultimi anni si deve dire che c'è stato un grande incremento di chi fa la vacanza in montagna attiva, non gira solo in macchina ma proprio si muove a piedi, prima magari lungo prati, sentieri, in bassi boschi, poi anche andando più in alto, seguendo sempre sentieri, si arriva anche a raggiungere cime dolomitiche oltre 3.000, tipo il Pisboè, che è raggiungibile proprio con senza difficoltà tecniche. Cioè con trekking, non bisogna avere corde? Non bisogna avere corde, per quello passeggiando, camminando. Passeggiando, sono fatte per tutti i livelli, per chi inizia proprio le prime volte che si comincia a muoversi in montagna, abituarsi un po' all'altezza anche, e poi chiaramente... si devono programmare anche queste escursioni, ci sono delle guide dove si possono leggere i dislivelli, la lunghezza, ci sono rifugi. Cosa importantissima è controllare e guardare bene anche le previsioni del tempo, e poi sono dei posti incantevoli proprio da caricarsi per poi ritornare in città. Lei, Herman, quanti sono le persone che partecipano ai suoi gruppi? Cioè, un gruppo di solito di quante persone è composto? A che ora partite? Se c'è una pausa? Allora, noi prevalentemente come guide accompagniamo le persone a fare le vie ferrate. Sulle vie ferrate portiamo al massimo 4 persone. Riferate, che sono appunto delle cose un po' più impegnative, dove serve l'attrezzatura, cioè imbragatura, corda, casco, e noi appunto guidiamo queste persone dando anche dei consigli come ci si muove, anche poi consigliando magari escursioni che possono poi successivamente fare da soli, e anche far conoscere meglio la montagna, dove con la cultura, tradizioni delle nostre valli. Invece poi quando facciamo le scalate vere e proprie, lì accompagniamo uno, massimo due persone per guida. Invece il gruppo trekking è un po' più composto, magari sono 15 persone, un po'... Ma che quando facciamo i trekking siamo più o meno sulle 10 persone, perché così possiamo anche seguire meglio chi viene con noi, abbiamo anche tempo di parlare, raccontare, appunto far conoscere i posti, fiori, montagne, e poi naturalmente ci si ferma in base alla distanza, poi ai rifugi dove insomma si può si mangia bene, si mangia bene. Si mangia bene e poi naturalmente si devono sempre poi rispettare certi orari per poi anche certo. per rientrare e insomma ancora godersi la giornata. Salvatore Cannavò, lei invece, portando la gente sull'Etna, com'è l'itinerario? Si va a vedere magari quando c'è un'eruzione vulcanica con le dovute cautele, oppure qual è la passeggiata tipica? Allora, l'Etna, appunto, essendo uno strato vulcano e quindi un vulcano molto, molto largo come ampiezza di territorio, non facendo parte di una catena montuosa, ma essendo singolo, ha una superficie veramente vasta. Quindi sì, si possono fare anche, si può avvicinare con le dovute cautele anche un'eruzione, ma l'Etna offre anche ben altro, è molto, molto ampia, bellissimi boschi. Comunque il territorio da visitare è tanto, non c'è un'escursione tipica perché l'Etna appunto offre tanto, inoltre anche vicino a posti come Taormina o il Barocco di Catania, quindi in Sicilia si viene sia per la montagna ma anche per il mare e quindi è un posto in cui si può fare l'uno e l'altro. Però le escursioni in montagna, qual è il periodo, qual è la stagione? Ma non c'è una stagione, nel senso che in ogni stagione ci sono cose che si possono fare e cose magari no, però l'Etna si può appunto venire tutto l'anno, addirittura nel periodo invernale si scia, si fa un bellissimo scialpinismo e si fa scialpinismo vedendo appunto il mare, l'Etna offre molto. Lei è mai andato in Val Gardena a fare un po' di trekking? In Val Gardena no, però in Italia ho ben girato altre montagne, ecco, anche Alpi, Appennino, giro spesso l'Italia, ecco. Quindi lei fa trekking anche fuori dall'Etna, cioè le piace certo, proprio andare certo, in montagna? Sono sempre un montanaro, quindi... È un montanaro siciliano. Herman, lei è mai stato sull'Etna? Sull'Etna no, però sono stato su Stromboli. E le è piaciuto? È una salita spettacolare di sera con queste eruzioni, poi la discesa fino giù al mare, una cosa, un'emozione grandissima. E poi sono stato parecchie volte ad arrampicare a San Vito Lo Capo in Sicilia, che specialmente in primavera, autunno è un posto bellissimo per arrampicare. Ma poi vorrà mai andare sull'Etna, 3.000 metri, quindi un po' 3.300 metri, un po' sono le sue montagne? Sì, diciamo che parecchi dei miei colleghi qui della valle sono già stati sull'Etna, però con gli sci, diciamo, di inverno, facendo lo sci alpinismo, e anche io insomma nel futuro avrò nei miei programmi appunto di salire, però ecco, con fare qualcosa con gli sci, con lo sci alpinismo. Lei vuole andare sull'Etna d'inverno, quindi vuole fare lo sci alpinismo. C'è una parte del mondo, una montagna che vuole scalare che non ha ancora scalato? Vabbè, tantissime, però insomma, quella che vorrebbe la prossima avventura? Ma diciamo che montagne, diciamo nel cassetto ce ne sono tante, quello che mi attira moltissimo è la Patagonia. E sicuramente in futuro andrò anche lì a fare delle scalate. Il Perito Moreno. E invece Salvatore Cannavò, lei dove vorrebbe scalare? Beh, a Patagonia è anche un bellissimo posto. Quindi vi incontrate in Patagonia? Perché no, è bellissimo. Inoltre, se posso, vorrei dire una cosa, sono anche un tecnico del soccorso alpino e collegandoci al discorso della sicurezza, essendo che il soccorso alpino è corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico è diviso ai servizi regionali, ogni servizio regionale magari ha la fortuna di avere qualche mezzo in più perché magari le istituzioni sono più attive, da noi non molto, e quindi noi possiamo metterci la tecnica, la professionalità, lo spirito sacrificio che contraddistingue il nostro corpo, però ecco, se magari insomma fa un appello la regione, esatto, Sicilia, un appello anche la regione Sicilia, le istituzioni in genere, perché due giorni fa è successo anche di andare a recuperare una salma, quindi gli incidenti succedono un po' ovunque, però ecco, i mezzi è una cosa fondamentale. Allora, noi diamo la linea al GR e ci ritroveremo domani. Ringrazio la redazione, ma Massimiliano Lollis, Alessandro Longoni, Silvi Boccaletti, e poi ringrazio anche Valerio Rocchetti in regia.